Adesso tutti concentrati, mettetevi comodi e cominciamo. L'attesa è finita. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dobbiamo prendere tutte le partite come partite importanti, mai sotto gamba, anche col Sassuolo, anche col Chievo, anche andare sempre in campo con l'intenzione di essere padroni del campo, padroni del gioco e di fare la goleada. E abbiamo la possibilità di fare la goleada. It starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. Berardi, sinistra ad uscire, conclusione al volo! Splendida di Simone Zaza! Sassuolo in vantaggio, ci pensa Zaza! Gross, pallone dentro e colpa di testa di Glick! Quinto gol in campionato, arriva il pari, Kamil Glick, 1-1. Dennis, il tank in contropiede, punisce Diego Lopez. Zero, quarto gol in campionato per German Dennis. Mi ricordavano prima che in questo momento l'anno scorso eravamo a 17 punti dal terzo posto, per cui non potevo pensare che prendere una squadra così potesse essere semplice. E dobbiamo dare di più, perché 30.000 persone sono venute a vederci, tanti tifosi del Milan ci seguono. La situazione comunque non è drammatica, visto che siamo pari all'Inter, che pensa giustamente di arrivare terzo. Dobbiamo invertire al più presto la rotta, chiaramente così non si può continuare, ma sono sicuro che col lavoro, con la voglia, comunque con quello che vedo anche durante gli allenamenti, torneremo presto a fare quello che facevamo un po' più tempo fa. Chi disse sperando come Filippo Inzaghi, Giorgio De Luca, il nostro autore, Fabio Cantadori, capitano in regia, Daniele Bonamici in redazione. Intanto Gilardino al Cagliari è quasi fatta, Emanuele Somba all'Atalanta. E poi ne parleremo. Pace fatta istantanea tra Okaka e la Sampdoria, niente multa, va in Coppa Italia, Tarallucci e Vin. Ciao Pierluigi Pardo. Ogagone. Ogagone mio bello, lo perdono. Come è andata ieri sera tiki-taka col signor Mancini, bene. Roberto, che poi sentiamo. Molto bene da ogni punto di vista, ma la cosa più importante è che ci siamo divertiti, quindi è l'unica cosa che conta. Sì, no? Sì. Poi sono anche gli ascolti, fortunatamente sono andati bene, però insomma divertirsi è certamente una cosa importante, anche perché gli ascolti danno la possibilità di continuare a divertirti, quindi no, mi è sembrata una puntata in linea, insomma, ma sai, noi quello che c'è da fare facciamo, se ci sono le polemiche facciamo le polemiche. Ieri c'era da fare sicuramente una celebrazione della Juve e poi c'era questa mega intervista a Mancini, che ringrazio ancora, che ha detto cose molto interessanti. C'erano gli aggiornamenti sulla situazione Milan. Poi ne parliamo ampiamente, la situazione Milan. Di Magistris, avevamo Max Giusti collegato da Roma, un Mughini in forma smagliante, insomma, divertente. Senti, ma dimmi una cosa, poi parliamo del Milan, perché Berlusconi ha smentito questa frase inaccettabile, per perdere così con squadre, con giocatori che guadagnano 5 volte meno dei nostri, eccetera. Poi oggi la notizia che avrebbe smentito, ha chiamato Galliani e Inzaghi, no no, quelle dichiarazioni dell'Ansa non sono vere, non ho mai detto così, dobbiamo ritrovare, dobbiamo essere coesi, ritrovare il gioco, eccetera. Però dimmi una cosa, non ci ascolta nessuno, Pardo. Sì. È vero che Cassano ha telefonato a Balotelli per convincerlo ad andare a Parma fino alla fine della stagione, prestito gratuito, e Balotelli ha detto di no? Non mi risulta. Non ti risulta? No. Sicuro? Oh, beh, l'ho sentito l'altro ieri, non me l'ha detto. Magari l'ha chiamato ieri. Adesso poi lo chiamo, glielo chiedo però. Prova a sentire. Sì. Sì, stiamo parlando. Diventando una chat line, sapete, i telefoni porno, amiche all'ascolto, no, invece facciamo le persone serie. Però dico, no, non mi risulta questa cosa qui. Poi i rapporti fra i due sono buoni, sicuramente sono buoni. Però insomma, non è che Balotelli avrebbe declinato e detto no, a Parma non ci vengo, vedremo dove va. Intanto c'è oggi una notizia, perché Cuadrado è vicino, dicono, al Chelsea, pronto a scucire subito 35 alla Fiorentina e vorrebbe Cuadrado adesso. Poi ne parliamo anche di questo. Traffico. La sua carriera da allenatore è cominciata, non è cominciata quest'anno, è cominciata nei due anni precedenti. Ha lavorato nel settore giovanile e con la Primavera, ha fatto degli ottimi risultati, ha dimostrato di avere delle attitudini giuste per fare questo mestiere. È chiaro che poi dopo diventare allenatore di una grande squadra come il Milan non è una cosa semplice. Non sto dicendo questo, sto dicendo che ci vogliono tante altre componenti poi che devono funzionare, non soltanto l'allenatore, devono funzionare, deve funzionare la società, i calciatori, tutti insieme. Tutti convocati. Inzaghi, credo che il Milan debba dare fiducia a Inzaghi, perché Inzaghi è un ragazzo giovane e quindi nel momento che si sceglie un ragazzo giovane si sa a cosa si può andare incontro. È chiaro che forse mancherà un po' di esperienza, ma ha le qualità anche per diventare un grande allenatore, quindi è chiaro che la società deve dare supporto, ma penso che il Milan lo stia facendo, insomma ci possono essere delle delusioni, questo è abbastanza normale. Questo Mancini ieri a casa del mio amico Pardo, difesa d'ufficio di Inzaghi. Capitano Massimo Ambrosini, buongiorno, oggi commentatore di Sky. Ciao Massimo. Buongiorno. Buongiorno a te. Capitano. Capitano. Come stai Ambro? Il capitano bene? È capitano. Dai, non è che bene, tutto ex. Bene, grazie. Tutto ovviamente commentatore Sky, ma anche ambasciatore di Dinamo Camp, una cosa bellissima, la quale anch'io do il mio... Dimmi. Vabbè, no, una cosa charity che fa Ambro da tanto tempo, ho cominciato a fare anch'io. Un posto meraviglioso in Toscana, insomma, no, adesso approfitto per fargli, insomma, per fargli fa sempre bene. Fa sempre bene. Esatto, un po' di marchio, dai, Dinamo Camp. Senti, Boban durissimo proprio a Sky e anche oggi sul Corriere della Sera in questa intervista di Alessandro Pasini, durissimo nei confronti del Milan. Sei dell'idea di Boban più o meno, o concedi qualche attenuante a Inzaghi al suo lavoro a questa squadra, Massimo? Ma io considererei più che attenuante un pochettino di tempo, insomma, comunque il tempo è sempre l'elemento fondamentale per un giudizio generale, soprattutto su un allenatore nuovo e con un'esperienza relativa come può essere Pippo. Quindi io condivido parzialmente, perché comunque io un giudizio tenderei a darlo non adesso, un giudizio definitivo non vorrei darlo adesso, anche perché comunque l'allenatore giovane fino a tre domeniche fa, non scordiamoci che il Milan dopo la partita di Roma sembrava fosse la più accreditata per arrivare al terzo posto. Ora sicuramente questo inizio di anno ha condizionato negativamente tutti i giudizi, però insomma, cerchiamo un attimino di avere un pelino di pazienza. Sì, Pardo, condividi? E soprattutto condividiamo con Massimo Ambrosini la nostra idea sul centrocampo del Milan, dato che è comune. Adesso facendo una valutazione tecnica astratta da fuori, al di là delle qualità o delle possibili colpe di Inzaghi, che ovviamente va aspettato, ha ragione Mancini, se lo prendi non lo puoi mandare via dopo tre mesi, secondo me, gli devi dare un po' di fiducia. Ma tecnicamente cosa manca a questa squadra? A me sembra che l'attacco alla fine delle qualità ce le possa anche avere. Il problema vero, e lo vedi con le piccole squadre quando giochi in casa, è veramente un centrocampo fragile, senza grande personalità e senza grandi idee, non so se sei d'accordo. E anche senza leadership, aggiungerei. Guarda, a me io l'ho visto parecchie partite del Milan, a me quello che sembra che possa mancare comunque sia anche un riferimento in attacco. Cioè, tu giochi in un certo modo, però non puoi essere schiavo di un giocatore come Menez. Cioè, quello che io penso, il Milan non può essere schiavo di un giocatore come Menez che può e sembra che debba giocare solamente come unico centravanti. Ma perché? Ma per chi l'ha detto che può giocare solo centravanti? Perché non ti garantisce copertura? Se non mi garantisce copertura in altri ruoli non giochi, e io ci metto dentro attaccanti, oltre che sicuramente, come avete detto voi, magari a centrocampo manca un pochettino di qualità, anche se il giocatore migliore del Milan in questo momento è Bonaventura, e Bonaventura a centrocampo un pochettino di qualità la può dare. Però insomma sono un pochettino di equivoci secondo me all'interno di questa squadra. 800240024, naturalmente il nostro numero verde per intervenire. Daresti una possibilità, diciamo, un po' più continuativa a Pazzini? Perché io sì, ma perché, cioè, Menez è un giocatore sicuramente che ha delle qualità invidiabili, cioè delle qualità importanti, soprattutto in una rosa dove qualitativamente non sei eccelso. Un giocatore così sicuramente ti condiziona, però quello che dico io ti può condizionare la sua presenza, ma non la sua posizione. Certo. Perché è vero che lui può rendere bene in quella posizione, ma è giusto che lui non si imponga solamente sì. in quella posizione lì. Perché poi tra l'altro è un paradosso, un piano B, no? Perché è un paradosso, perché Menezzi in quel ruolo lì è adattato. Io mi ricordo che quello il trofeo è, team però... a Reggio Emilia venne provato per la prima volta a pochi giorni dall'inizio del campionato da falso 9, da punta centrale, e sicuramente ha fatto delle cose importanti, però insomma io non capisco perché Menezzi non possa giocare in un tridente con una punta nera in mezzo. È quello che penso io. Anche se Deschamps ha detto che quello è il suo ruolo, non ci credo fino in fondo, cioè quello di centravanti, non ci credo fino in fondo, però non, devi avere un piano B, hai ragione Ambro, non esiste solo una soluzione. Ma deve esistere un piano B, ma soprattutto non posso pensare che un giocatore non possa giocare solamente in una posizione con l'età di Menezzi, con le caratteristiche di Menezzi, se un giocatore a 35-36 anni, so, esempio Totti, che magari può giocare in quella posizione perché non può magari garantirti delle altre cose in fase difensiva, ma non penso che il ragazzo non possa avere qualità fisiche, atletiche, probabilmente mentalmente in questo momento può garantirti solo quello. Vorrei invece girarti. Non è una prima punta, adesso è un grande talento, ma non è una prima punta, sì. Cioè, secondo me non è una prima punta da grandissima squadra, l'attaccante da 20-25 gol che dà fisicità in area di rigore, al quale ti puoi appoggiare su dei cross, non beh, è quello il Milan non lì. Ce l'ha però Pierluigi, fallito l'esperimento Torres che era chiaramente bizzarro, il giocatore da 20-25 gol non può essere neanche Pazzini. Vorrei invece girare ad Ambrosini la risposta di Boban oggi sul Corriere della Sera a proposito di una domanda sui fischiatori di San Siro. Boban dice: normale, si sentono presi in giro, vorrebbero dei guerrieri e non li vedono, perché alla tua squadra può anche mancare il gioco, non il gruppo e il senso di appartenenza. Leggendo questa risposta mi sei venuto in mente un po' tu, Massimo. Guarda, San Siro la gente mugugnava anche quando si vincevano i campionati, si vincevano le coppe, facevi magari due o tre partite non giocando bene. Io ricordo che noi l'anno che vincemmo la Coppa Campioni, l'anno seguente la prima partita di campionato che vincemmo a San Siro fu col Napoli dopo Natale, e la gente in quel 3-4 mesi comunque fischiava, quindi questo è un conto. Sono d'accordo con Svone, detto questo, che comunque ci voglia un atteggiamento di un certo tipo, cioè un cambiamento all'interno della stessa prestazione, la gente lo esilia. Però secondo me un equivoco è lì che secondo me probabilmente la gente e viene condizionata, è da quello che viene detto intorno a questa squadra. Cioè bisognerebbe ammettere quali possono essere i limiti di questa squadra e non cercare di farla passare per quella che non potrà mai essere. Pierluigi, nei momenti di semplicità, nei momenti di difficoltà spesso la semplicità ti salva. Come vedresti Montolivo davanti alla difesa, arretrato, comunque in posizione più centrale, magari con un paio di mediani per far ripartire l'azione, un centravanti vero, magari con un esterno capace di fare cross, che potrebbe essere Cerci perché è stato preso per quello. Benissimo, per me il Milan migliore, premesso che poi da qua è facile, insomma siamo tutti allegramente a Cologno Monzese o Viale Monterosa e parliamo, e alla fine se si vince o perde non cambia niente, la pressione che c'è Inzaghi è ovviamente diversa, però ecco, vista da fuori sicuramente Montolivo a fare il regista, due giocatori che gli diano fisicità, dinamismo e lo lasciano libero di impostare, sperando insomma ovviamente in chiave Milan che possa recuperare un po' di genialità, e una punta assolutamente di peso, di ruolo. L'unico vero è Pazzini in questo momento, sinceramente, e con due giocatori di esterni non mancano al Milan, perché Menes e Cerci sono due, aspettando il Sharawi, sono due ottime alternative. A me sembra la soluzione più semplice e più logica. Poi c'è Bonaventura ovviamente, che è una chiave tattica, sottolineava Ambro, che può diventare importante. C'è bisogno di peso, secondo me, soprattutto nelle partite in casa. Il Milan ha perso 5 partite, ne ha persa una sola fuori contro il Genoa, ne ha perse 4 in casa, di cui, a parte quella con la Juve, le altre 3 sono con squadre di media classifica. Ma perché si ostina a giocare da provinciale, quando incontri le provinciali, quelle vere, che corrono, ti fanno un mazzo così, secondo me, Max. Sì, questo può essere una chiave giusta di lettura, è una squadra costruita in un certo modo, che ha determinate caratteristica. A me quello che una cosa mi piacerebbe aggiungere è il fatto che comunque questa squadra, anche all'interno di alcune sconfitte, ha mostrato forse una scarsa reazione emotiva, che è questo forse che è la cosa un pochettino più, diciamo, preoccupante. E che io penso che al di là insomma del del bel gioco, della ricerca del bel gioco, che è sicuramente la base di tutti i progetti, ci voglia una reazione emotiva che ti possa far anche ribaltare delle situazioni, non per forza col bel gioco, con le belle giocate, ma con un po' di sana ignoranza. Sì. Quello forse che... quando Pippo dice che vede cose interessanti in allenamento, al di là del fatto che magari sono anche poi frasi di circostanza, ci può stare ovviamente una difesa giusta, doverosa del gruppo da parte di quello che ci mette la faccia, però insomma, se il segnale è questo, secondo me paradossalmente è un segnale inquietante, proprio perché vuol dire che la diagnosi è lontana. Cioè, se lui è soddisfatto delle cose che vede in allenamento, se il lavoro dei giocatori durante la settimana è buono e poi la domenica non si traduce in risultati concreti, vuol dire che Ambra ha ragione, cioè che c'è poca personalità, che alla prima difficoltà la squadra si scoraggia e non riesce a cambiare passo. Sì, sì, questo, cioè, allora, il rapporto mediatico, insomma, questo fa anche parte del bagaglio di esperienza che si deve fare un allenatore, cioè come gestire determinate situazioni, quindi questo farà parte di quello che succederà nella carriera di Pippo, come gestire tutte le conferenze, quello che bisogna dire, cosa ottenere dal proprio gruppo in base a quello che viene fuori durante le conferenze. Però sicuramente sulla mancanza di personalità un allenatore può arrivare fino a un certo punto. Secondo me, comunque, anche la qualità mentale dei giocatori, a un certo punto tu la puoi modificare, ma difficilmente la puoi allenare. Sì, tu hai giocato anche in una squadra in cui c'era un forte senso di appartenenza. In questa squadra è impossibile parlare di senso di appartenenza per giocatori che sono arrivati ieri o l'altro ieri. Questo forse può contare qualcosa. Sì, ma io quando parlo di parlare chiaramente di una squadra, insomma, bisogna veramente, cioè, cancellare i paragoni, cancellare tutto quello che era il passato e capire a che punto si è in questo momento, che non è un punto clamorosamente disastroso, è semplicemente molto diverso da prima, ma penso che nei cicli della vita, delle cose, sia anche una cosa abbastanza normale. Sì. E comunque torniamo al solito discorso. Io penso, lo ripeto sempre, perché secondo me è vero, cioè non c'è tifoso che abbia goduto in questi 25 anni come il tifoso del Milan. Questo è il punto di partenza, e quindi a maggior ragione la società, anche se mi rendo conto che è difficile impopolare a San Siro, però dovrebbe provare in questo tempo di vacche magre di parlare chiaro e di fare magari un progetto diverso. Magari il progetto diverso ti piace, alla fine appassiona anche il pubblico, secondo me non è cretino, il tifoso sa benissimo che ci sono fasi economiche diverse, e magari insomma puntare sui giovani, fare un progetto a 3 anni, a 5 anni ti può portare delle soddisfazioni. Questo però chiaramente ci vuole coraggio a farlo, mi rendo conto che è complicato, perché poi Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli sono società... Arrivo, un attimo! Ambro? Che tacchita, non ti hanno chiamato al Milan? Pensavo di avermi messo in muto, c'era mia figlia. Vabbè, vai, comunque... Massimo, vai Massimo. La notizia ufficiale, è stato chiamato dal Milan. È stato chiamato dal Milan, arrivando. Massimo Ambrosini sta arrivando. C'è Galliani di là al telefono. Ciao Massimo, grazie. No, ciao. Tranquillo. Borsa. Arrivo, Borsa. Del Milan non abbiamo parlato perché l'ho visto proprio qua, a Rigo, ma certamente a tutte e due dispiace il momento, però sono cose che passano nel calcio. 1, 2, 3. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Arrivo un attimo, Ambrosini. Eccomi. Pardo. Senti, arrivo. Siamo qua a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Arrigo. Arrigo arriva. Ci può stare. Vai. Ascoltatori, 800 24 00 24, naturalmente non solo di meno, di tutto quel che vi pare, perché siamo qui a tutto tondo. Vincenzo Ragusa, buongiorno. Buongiorno a voi. Se mi dai un minuto, volevo dire una cosa che voi non dite, non capisco il perché. Troppi giornalisti non la dicono. Se si parla, io sono un tifoso milanista, 5 finali di Coppa dei Campioni partendo da Ragusa, mi sono tolto sto sfizio, grazie a Berlusconi e Galliani e tutto quello che volete. Cioè, qua parlate di discorsi, io dico quello che penso il 100% dei tifosi milanisti, non quello che dite voi. Sarebbe molto semplice, sarà semplicemente che il signor Berlusconi, che non spende niente, dice che spende 100 milioni l'anno per pagare gli ingaggi, ma sti ingaggi chi li ha fatti? Il signor Berlusconi. Queste persone al Milan che mi parlate di aspetto tecnico, Ma lì neanche se ci va Mourinho o se ritorna Ancelotti. Ma chi la deve allenare quella squadra? Ma qual è questo aspetto tecnico? Ora sul banco degli imputati va Inzaghi, ma perché quella squadra dove dovrebbe arrivare con un altro allenatore? Lei è della Sicilia orientale, vero? Sì, allora io però fatemi concludere. Ragusa. Ragusa. Nessuno ha il coraggio di dire che il Milan lo sta affossando il signor Galliani, tanto di cappello. Concludo, quando comprava Lentini, Rui Costa con i soldi di Berlusconi e spaccava il mercato, ma quello lo poteva fare mia figlia, perché a comprare caviale e champagne con i soldi siamo bravi tutti. Il bombate di famiglia è quello che fa mangiare bene senza soldi. Cristo mi toglie Pirlo per darlo alla Juve e cambia la storia del calcio in Italia, sapendo che Van Bommel l'anno dopo va via, non Allegri. Non mi dite che è stato Allegri, perché Allegri comandava il Milan, l'ha mandato via Allegri Pirlo perché voleva 6 milioni l'anno e poi ne dà 4 a SN. Ma chi l'ha cambiata la storia del Milan? L'ho cambiata io. Dite le cose come stanno. Galliani si sta facendo i fatti propri. La buona uscita di 70 milioni. Il concetto è che posso dire un po' di cose. Prima di tutto, viva Ragusa, Ragusa Ibla, uno dei capolavori, Pachino, chi non c'è stato ci vada. Stiamo parlando di una roba metafisica, per quanto è bella. Chiudo la parentesi. Sono parzialmente d'accordo, cioè è evidente che il Milan negli ultimi anni ha degli alti costi di ingaggi e dei bassi costi di cartellino. Questo è la politica societaria che non ha deciso Galliani, perché negli ultimi anni, di fronte a un budget sicuramente limitato, alla necessità di tagliare i costi, che è emersa drammaticamente nell'anno della doppia cessione di Thiago e Ibra, qualcosa bisogna fare. Thiago e Ibra chi li aveva presi? Paris Saint-Germain? No, lo so, ma chi gli aveva portato al Milan per non troppi soldi? Se discutiamo Galliani, io non sono d'accordo, cioè Galliani è uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano e su questo secondo me non c'è da discutere. Sicuramente negli ultimi anni, in questo sono parzialmente d'accordo, che poi il discorso che facevamo prima con Ambro, il Milan ha preso una strada che è quella del cercare comunque un acquisto ad effetto, comunque il vecchio campione magari un po' bollito da provare a far rinascere, è una strada che chiaramente è una strada stretta. La mia teoria la ribadisco, mi rendo conto che è difficile, che il Milan, proprio perché ha vinto tanto negli anni, dovrebbe avere il coraggio di andare ai tifosi e dire: ragazzi, non abbiamo i soldi che avevamo prima, facciamo una politica diversa, l'obiettivo è il 2018, in questi 3 anni cerchiamo di fare una squadra divertente, cerchiamo di fare cose interessanti e di valorizzare un gruppo di giovani con una rete di scout che probabilmente in questo momento il Milan non ha, o se ce li ha poi alla fine vengono sacrificati in nome del grande colpo ad effetto. Questo discorso però si faceva già qualche anno fa, quando poi venne preso a sorpresa Ibrahimovic e ripartì non un ciclo Ibra è l'eccezione che conferma la regola, Ibra è il capolavoro, è stato un capolavoro preso, se non sbaglio, a 16 milioni di euro spalmati, arate, nazionali. Senti, Pier, mi fa una bella presentazione dell'allenatore dell'Atalanta che è collegato con noi. Ah, il signor Colantuono. Ieri uno mi ha scritto, scommetto che non inviterai Colantuono, a Tiki Taka perché il programma è Mediaset, invece possiamo dirlo che ti avevo invitato. Grazie, sei sempre molto gentile, mi hai invitato a più riprese. Volevo quasi mandare l'SMS, poi roba privata, non gliel'ho mandata. Intanto lo aspettiamo tutti i convocati, cosa che per fortuna capita spesso. Senta, io vedo una strana similitudine tra l'Atalanta e il Torino. Uno scontento strisciante e incomprensibile da tutte e due le parti, una tifoseria che mugugna, un'aria abbastanza strana intorno a queste due squadre, e dall'esterno mi domando il perché. Io non, a questa domanda non posso rispondere, perché bisogna stare nella testa di chi comunque ogni tanto mugugna, non lo so, sai, noi in questi anni abbiamo fatto abbastanza bene, ma anche è abbastanza la storia del club, mi pare, no? Sì, credo di sì, insomma ci siamo salvati addirittura con un -6, cosa per una neopromossa credo difficilissima, e invece l'abbiamo fatto, poi ci siamo salvati con un -2, poi abbiamo fatto un campionato tranquillissimo, l'anno scorso abbiamo lottato se non altro fino alla fine per un piazzamento in Europa League, quest'anno abbiamo avuto una partenza con un po' di problemi, ma niente di così poi di diverso dalle annate precedenti, tant'è vero che quest'anno abbiamo chiuso il girone d'andata con 20 punti, mentre nello scorso campionato avevamo chiuso con 21. Tutto sostanzialmente in linea con gli altri anni, però non lo so, quest'anno vabbè, capita, sarà che nelle ultime due partite, tolta quella con il Chievo che abbiamo pareggiato alla fine, mi riferisco a quelle con il Palermo e quelle con con il Cesena avevamo chiuso il primo tempo in svantaggio, c'erano stati qualche mugugno, qualche fischio, poi nel secondo tempo siamo riusciti addirittura in un caso a vincere la partita, nell'altro a pareggiarla, e forse qualcuno sarà rimasto scontento, però ripeto, ci sta, così come ci sta comunque quelli che poi sono contenti e che addirittura domenica sera al nostro arrivo qui a Bergamo ci sono venuti ad abbracciare e applaudire per la vittoria a Milano. Mancherebbe altro, Pardo. Sì, sì, ma io penso che vabbè, la considerazione, se vuoi, banale, filosofica, che comunque finché il tifoso ovviamente non scende sul piano della violenza, cioè noi andiamo allo stadio gratis a sì. lavorare con l'accredito stampa e siamo da questo punto di vista dei fortunati e dei privilegiati. Il tifoso mette i soldi tutte le domeniche e quindi secondo me ha il diritto, ci mancherebbe. No, ma non è questione di diritto, è questione di capire. È questione di capire. Delle volte il tifoso non capisce, secondo me, per esempio nel caso del Torino, adesso poi torniamo alla Atalanta, magari non capisce dopo tanti anni di attesa, ritorno in Europa, recessione di Cerci Immobile, che da un punto di vista economico ci stanno, possono diventare anche positive se poi a quelle cessioni fanno fronte acquisti di un certo tipo. Sull'Atalanta mi sembra che il problema fosse quest'anno che si segnava un po' poco, sì. Insomma adesso la classifica comincia a assestarsi. Su quel problema lì tu come stai intervenendo? Al di là... Ma noi abbiamo avuto, guarda, Pierluigi, noi abbiamo avuto dei problemi quest'anno, pronti via, siamo partiti, abbiamo perso due giocatori, due esterni titolari, noi solitamente giochiamo in una certa maniera, 4-4-2, ti trovi senza Estigadibia, senza Raimondi, due pedine su uno stesso ruolo. Poi abbiamo dato via Bonaventura l'ultimo giorno di mercato, non dimentichiamo, insomma, un giocatore che per noi era determinante nel scorso campionato, è stato importantissimo, tant'è vero che sta facendo la differenza al Milan. E abbiamo preso Papu Gomez, che veniva da 4 mesi di inattività perché era stato in Russia, mentre stava crescendo un po' di condizione si è fatto male e l'abbiamo perso, giocatore che ci doveva darci qualità, per cui ci siamo trovati un po' corto da un certo punto di vista. Gli altri esterni sono tutti ragazzi esordienti nel massimo campionato, per cui gli va data un momento di pazienza, ci vuole con questi ragazzi. Ci siamo trovati un po' in difficoltà, però insomma abbiamo fatto un campionato normale, non siamo mai stati nelle ultime tre, siamo stati sempre lì in linea di galleggiamento, tranquilli, sai, noi siamo una squadra che deve salvarsi comunque, non certamente, è che deve fare certamente. Cose diverse dalla salvezza, ogni anno l'abbiamo fatto, tanto è vero che la classifica alla fine ricalca l'andamento degli ultimi 3 anni, una volta abbiamo girato a 21, una volta abbiamo girato a 24, soltanto il primo anno avevamo girato a 26, però eravamo penalizzati e comunque ci avevamo 20 punti. E quindi questa ragione credo che l'abbia dato fastidio qualche voce che ha girato. Come dicevate voi prima, chi fa il biglietto e viene allo stadio è libero di esprimere come meglio crede il proprio malumore, il proprio dissenso, non lo so, io credo che sì, come tutte le squadre qualche partita l'avremo sbagliata, ci mancherebbe, è innegabile, abbiamo sbagliato un paio di primi tempi in casa, però nel secondo tempo abbiamo fatto poi una grande partita. Noi siamo l'Atalanta, l'Atalanta nella sua storia ha fatto sempre questo, chi non è rimasto contento lo capiamo, cercheremo di organizzarci e di fare il possibile per farlo stare ancora più contento di quello che non siamo riusciti a fare. Impossibile, lo stiamo facendo per i miracoli, ci stiamo organizzando come si vede in giro in qualche cartello, in qualche negozio. Però niente di che. Poi tenete presente un'altra cosa, che noi nelle ultime gare purtroppo abbiamo avuto fuori lo zoccolo duro, insomma, della tifoseria, che per i motivi precedenti gli è stato chiedato di entrare, e quelli che non sono entrati chiaramente sono quelli che a volte fanno più rumore, fanno più tifo, sono quelli che magari coprono anche qualche mugno. Però ripeto, noi a Bergamo siamo abituati a compattarci e a salvarci tutti insieme, perché per noi l'apporto del pubblico è fondamentale. Credo che in tutti gli stati d'Italia ci siano quelli che poi alla fine esprimono sempre un po' di dissenso, da quelli che si trovano da tutte le parti. Ora vanno accettati e rispettati. Le arriva Emanuelson, no? Sì, ora dovrebbe arrivare Emanuelson, che è un ragazzo che un esterno appunto che verrà a darci una mano, proprio perché avevamo perso due giocatori in quel ruolo. Siamo contenti perché è un giocatore di qualità e di valore, visto e considerato che insomma negli ultimi anni ha giocato nella Roma adesso, nell'Ajax, sì, e nel Milan, quindi sì, un giocatore insomma di grande valore. Un'ultima cosa, domenica avete sbagliato diverse occasioni, sì, per matare un Milan che onestamente converrà era quasi inesistente in quella partita. Beh, io parlo della mia squadra, sì, l'unico rimprovero che possiamo farci per la gara di domenica è questo, non averla chiusa, perché poi con queste squadre se la partita la tieni sul filo dell'equilibrio con una giocata del singolo magari possono pareggiartela e a volte anche vincerla, e questo è l'unico rimprovero che devo fare alla squadra, che comunque è stata fantastica, ha fatto una grandissima prestazione. Grazie mister. No, una cosa finale, scusa. Parli della tua squadra, però mi dici come si imposta una partita contro il Milan perfetta come l'hai fatta l'altro giorno? Cioè, dal punto di vista dell'avversario, quali sono le fragilità? Ma no, noi non è che abbiamo lavorato sulle loro fragilità, abbiamo cercato di metterli in difficoltà in una certa maniera, insomma, andandoli ad aggredire alti quando c'era la possibilità che loro erano magari posizionati male nel giro palla, e allo stesso tempo, quando invece riuscivano a venire fuori, magari abbassandoci un pochettino, non lasciandogli molto spazio alle nostre spalle, perché ha dei giocatori sugli esterni e comunque lo stesso Menezes che si tira fuori e poi si inserisce, che sono molto forti, insomma, sono giocatori di grande qualità. Quindi devi cercare di fare una via di mezza, di essere corto, di essere aggressivo, e poi quando c'è la possibilità, come è successo, di rubare palle e ripartire, dare qualità negli ultimi 20 metri, altrimenti poi la partita non ce la fai a vincerla. Noi devo dire che abbiamo fatto questo più che altro, insomma, abbiamo fatto molto bene. Grazie mister, bocca al lupo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Stefano Colantuono. Tutti convocati. Ha citato la crisi delle milanesi, ha detto che sono per ragioni diverse. Quali sono le rispettive? Ricostruzione, grandi cambiamenti, cambio dell'allenatore per l'Inter, cambio dell'allenatore anche per il Milan, sia pure dall'inizio dell'anno. Tanti giocatori diversi, non è facile costruire una mentalità. Questo Marcello Lippi, Daniele Pavia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Una domanda, ma il Milan, al posto di rinnovare il contratto a Bonera, non poteva tenersi il pullman? O no? Allora, del pullman ieri. Del pullman venduto per 150.000 euro del Milan, ieri ha scatenato. Scatenato. I risparmiati da Bonera potevano servire. Poi sono d'accordissimo con Bardo quando dice che comunque il tifoso capirebbe di più se ci fosse un progetto con dei giovani alle spalle, un allenatore che fa del calcio il Ventura della situazione. Sei contento anche di arrivare ottavo, nono, però con un progetto dietro. Ma io credo però che sia difficile praticare questo progetto se ti chiami Milan, se presidente Berlusconi, eccetera, eccetera. Sia difficile praticare questo progetto. Cioè, prendi Ventura e ricostruisci il Torino a Milano con la maglia rossonera, cioè non lo so se davvero è un'idea. L'ho detto per prima cosa, lo so benissimo che è difficile, lo so benissimo che l'impazienza soprattutto nei grandi club esiste, però secondo me è una strada migliore di questa, perché questa qui invece è una strada di tentativi ed errori nella quale si cerca sempre il colpo d'effetto, ma i problemi strutturali mi sembra che rimangano appesi, e quindi poi alla fine si rischiano delle brutte figure. Insomma, ragazzi, la Juve arriva da 2 anni settima ed era lontanissima da quel progetto lì. Poi ha trovato Conte, investire sbagliava, non a caso Conte è stato cercato dal Milan l'anno scorso, quindi voglio dire, non è che non ci avesse pensato il Milan alla soluzione Conte, però insomma io dico che alla fine poi è meglio essere onesti, e soprattutto una società come il Milan, che ha vinto così tanto negli anni con dei tifosi, il tifoso non è mai sazio ovviamente, perché il calcio è materia liquida, quindi ogni settimana cambia, no? Però insomma non credo che nessuno potrebbe, di fronte a un discorso di questo tipo, razionalmente rimproverare nulla a Berlusconi dopo i 25 anni che ha vissuto. Ci sta, e sarebbe secondo me un investimento di medio periodo. Non è così diverso dal discorso che faceva lo scorso anno Barbara Berlusconi, tra l'altro, un discorso che poi ha avuto subito un impatto mediatico, forse anche destabilizzante nelle prime uscite, ma che aveva degli elementi secondo me interessanti. Ecco, dal punto di vista del brand, che mi rendo conto è un discorso che poi interessa poco ai tifosi, mi sembra che il Milan stia facendo delle cose nuove, delle iniziative nuove di altissimo livello. È un discorso che interessa molto Berlusconi, perché insomma, da uomo di comunicazione, cioè il Milan è sempre stato un po' la sua immagine. La comunicazione di una squadra di calcio, per quanto tu possa fare casa Milan, che va benissimo, Milanello, il museo, eccetera, eccetera, la comunicazione della squadra di calcio è la vittoria o la sconfitta. La squadra di calcio comunica soprattutto la domenica quando scende in campo, se vince o se perde. Poi sul resto chiaramente puoi inventarti le cose migliori del mondo, e il Milan da questo punto di vista continua secondo me a ragionare da grandissima società. Però poi è chiaro che se vai in campo e perdi col Sassuolo e perdi con l'Atalanta, con tutto il rispetto, poi ripeto, puoi avere pure il museo e casa Milan e organizzare le cene, no? E la visita alle coppe che hai preso in passato, ma quello è il passato, ecco. Quindi dal punto di vista tecnico secondo me non c'è in questo momento la stessa chiarezza che c'è, la stessa chiarezza che c'è invece dal punto di vista del marketing, del brand. Posso dire ufficialmente che io sono favorevole alla cittadinanza onoraria torinese per Del Piero. Mi sembra non una cosa, concessa. Mi sembra una cosa piccola, no? Molto, cioè, piccola, e non capisco perché il no, perché credo che ci sia un discorso di antagonismi politici, però insomma francamente mi sembra, cioè, Del Piero ha contribuito alla storia di Torino, la città dove gioca la Juve. Secondo me l'avrebbe meritata. Poi ripeto, è una piccola cosa che non cambia certamente la vita di Del Piero, ma secondo me è una soddisfazione che merita. Che sì, merita, che sono merita. D'accordo, sono d'accordo. Intanto magari darà la cittadinanza onoraria di Toronto al giocatore più ricco d'Italia, che diventerà Sebastian Giovinco, 8,6 milioni a stagione, leggo una cifra sproporzionata, spropositata, e che lui fa benissimo ad andare a prendere, secondo me. Ciao Pier. Ciao, volevo dire appunto, ieri sera abbiamo fatto questa simulazione al volo che praticamente con i soldi di Giovinco si compra, adesso non è per fare i conti in tasca, beato lui, è 500 volte lo stipendio italiano medio, sì, l'equivalente di 59.600 forme di parmigiano, 3.400 utilitarie, più di 200 Ferrari o un jet privato intercontinentale. Quindi questa è un po' la misura. Complimenti al signor D'Amico. Complimenti, che è stato nostro ospite qualche giorno fa, al quale sto cercando di fargli fare il mio agente, ma con scarsi risultati, perché dice che vendevo vendere. Posso vendere un po' di ciccia, basta. Ciao, la saluto, gente. La saluto, buona giornata. Allora, Ilario, provincia di Verona, Roberto da Cesena, state lì, 800240024. Ma che ha detto il designatore Messina ieri? Cosa ha detto? Abbiamo inoltrato il filmato alla FIFA, che per noi, per la Federazione Italiana, è il punto di riferimento assoluto, perché è l'organismo che poi determina le regole e determina le interpretazioni delle regole. La FIFA ci ha confermato che quel gol è un gol regolare, pur riservandosi la possibilità di sottoporlo all'IFAB. Quindi non escludiamo che ci sarà una rivisitazione dell'IFAB, e quando questa verrà fatta la renderemo pubblica. Tutti convocati. It is another exciting day for Toronto FC and our fans. Today marks a historic moment for not only Toronto FC but Major League Soccer. Today we are announcing the signing of Sebastian Giovinco. First off is the player, Sebastian Giovinco. Obviously we've seen a lot from him and we know him as a player. Hello Toronto and MLS. I am excited to sign with Toronto FC and see you all this summer. Thank you for your support. Adesso faccio un saluto in italiano. Ciao Toronto, ciao Canada, aspettatemi che a lui arrivo. Un bacio, ciao. Allora cosa fece? È inglese un po' maccheronico, Giovinco dovrà studiare un po' l'inglese, ma insomma avrà tutti i soldi per pagarsi qualunque tipo di insegnante, 6 milioni di ingaggio netti a stagione, 2,5, oltre 2,5 fra bonus e diritti d'immagine, 8,6 a stagione, quadriennale con Toronto, giocatore più pagato d'Italia, guadagnerà di più di James Rodriguez al Real, di Robben, di Eto'o che sta per arrivare alla Sampdoria, di un sacco di giocatori, di tutti i giocatori italiani. De Rossi ne prende 6,5, Balotelli 6, Totti 4,5, Buffon 4, Pirlo 3,5 e secondo me Giovinco fa benissimo. Un'offerta così non si rifiuta. 800-24-0024 è il numero verde. Qualcuno dirà: ma va a seppellirsi calcisticamente in Canada? Si va a seppellirsi sotto una montagna di dollari. Ripeto, a un'offerta così non si ha una proposta indecente di questo tipo, non, un professionista non può dire no. Intanto Marco scrive che con tutta l'IRPEF che ha pagato Del Piero dovrebbero dargli pure le chiavi della città. Ilario, provincia di Verona, grazie dell'attesa. Grazie a voi, buona giornata. Allora, io sono milanista dai tempi di Schiaffino, non so se qualcuno si ricorda, poi è venuto Lidl, poi Rivera, poi Maldini, poi sì. Fuori classe a non finire, per finire gli ultimi, gli olandesi, no? Siamo ridotti a Bonera, De Siglio, Poli, Essien, Muntari. Ecco, la crisi del Milan è quella lì, perché le squadre che danno via i giocatori a parametro zero, se fossero dei buoni giocatori, col fischio li darebbero via a parametro zero, no? Io ho visto per esempio sabato l'Empoli giocare, era tanto tempo che non vedevo una squadra di calcio giocare così bene. Peccato che non abbia davanti dei giocatori che riescano a buttarla dentro. Sì, però ma... Ilario, quello che le chiedo, lei che ha vissuto tutte queste ere di un Milan vincente o anche meno vincente, perché non dimentichiamo che dopo Schiaffino, dopo io quello non me lo ricordo, non c'ero. Ricordo quello di Rivera, però dopo il Milan di Rivera ne arrivarono delle altre edizioni che non erano esattamente all'altezza del passato. Se dovessero prendere l'Empoli, mettergli la maglia rossonera, farlo giocare a San Siro e chiamarlo Milan, lei sarebbe contento? Sì. Vedere giocare l'Empoli dai tempi di Gullit, Van Basten e compagni, non ho più visto il Milan giocare come l'Empoli sabato. Insomma, qualche altra Milan, no, qualche altra, insomma, il Milan di Ancelotti che ha vinto il Champions League non era male. Triangolazione in velocità, io capito, uno stop sbagliato che è uno stop. Io mi sono divertito, che era tempo che non mi divertivo a guardare. Ma gioca molto bene, l'Empoli gioca molto bene. Quello che mi domando è, tu adesso tutti i tifosi del Milan, insomma, a parte che io qualche altra edizione del Milan, di un Milan guardabile e che qualcosina ha vinto, la ricordo, perché il Milan di Ancelotti, ma anche il Milan ha vinto lo scudetto con Ibrahimovic, che non era proprio un cagnaccio, quattro anni fa, insomma, qualche altra edizione di un Milan apprezzabile, io la ricordo, non bisogna dimenticarlo questo. Quello che mi domando è, a parte il fatto che mi faceva notare il dottor professor Giuseppe Cruciani nel periodo non collegato, quando c'era GR, non andrà a chiacchierare, che dal giorno dell'Ipipurra Milanello di Berlusconi il Milan ha fatto un punto pessimo a Torino in 3 partite con Sassuolo, Atalanta in casa e appunto Torino in trasferta meritando di perdere, che quell'Ipipurra forse vi ha portato un po' di... non andava benissimo. Roberto Cesena, buongiorno, grazie. Pronto sì. Come pronto? Dov'è? Sono qua. Eccolo. Mi sente? Sì. Perfetto. Complimenti intanto alla trasmissione e poi Zeta, lei ha un timbro di voce che mi ricorda quella del grande Gigi Garanzini. Grandioso. E niente, tre considerazioni. Uno, rispetto al ritorno di Mancini, io l'ho trovato molto ma molto cresciuto, sia come allenatore sia come manager e anche come PR nelle proprie interviste. Quindi sì. Mi sembra che veramente gli abbia fatto molto molto bene stare un po' all'estero e fare delle grandi esperienze. Beh, insomma, è cresciuto Mancini, ha cominciato. Oh, io me lo ricordo, ma me lo ricordo anche l'anno del campionato con l'Inter vinto, era però anche nel rapporto con stampa, con pubblico, un po' più Sì, ha imparato molto, sì, ma si impara, ha fatto esperienza, è stato in grandi club, poi è un uomo di grande intelligenza, quindi no, assolutamente. Non è mica pirla, come direbbe Mourinho. No, assolutamente. Una considerazione sul mio Cesena, purtroppo siamo i più deboli di questo campionato, se siete d'accordo con me. Ho il timore di sì, tra in l'altro rescisso il contratto con Hugo Almeida, già finita l'esperienza lì, ma non è che penso che non cambierà poi di molto. Però Cesena lo vedo, come dice lei, amaramente come la squadra meno attrezzata di quelle in circolazione. Non credo ci siano grandi dubbi su questo. Tancredi Palmieri, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Tutto bene, tranne i raffreddori. Vabbè, ah, quello ce l'abbiamo tutti. Porca miseria, io ci ho messo anche i freddi e i venti di Zurigo del pallone d'oro a quello, quindi è stato proprio... Paolo, provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno, gente. Allora, fa bene Giovinco o no ad andare a giocare in Canada per una montagna di soldi? Ma fa benissimo, poi, urliamolo al mondo. Anche perché in Canada, io sono stato a Toronto. È una città meravigliosa. Ma meravigliosa, sono, grande comunità italiana. Ci sono un sacco di italiani. Sì. Ma tantissimi. Ma è un posto meraviglioso. Pensi che negli anni 70 Toronto aveva 3 milioni e mezzo di abitanti, di cui 500-600 mila di origine italiana, quindi si farà di quelle mangiate a casa degli italiani. Sì. Detto questo, volevo intervenire per il Milan. Sì. Ho avuto notizie che il primo allenamento di Cristante al Benfica, venendo dal Milan allenato, giocato, tutto in ordine, ha perso 2 chili. Sì. Quindi? Cosa vuol dire? Non so, me lo dica lei. Secondo me, guarda che le dica, ma non è solo il Milan, è il calcio italiano. Il calcio italiano giochicchia, non gioca. Là fanno 90 minuti uno dietro l'altro. Sì, è un ritmo diverso. Uno cade per terra, si alza e via che si va. Da noi perdono un sacco di tempo. Sì, è un gioco molto più frammentato, molto più tattico, molto più spezzettato. Poi è anche vero che, ma l'hanno detto tutti, lo riconoscono tutti gli allenatori del mondo dal punto di vista tattico, comunque il campionato italiano è una cosa particolare ed è anche probabilmente ancora il più impegnativo. Si gioca un calcio molto frammentato e questo lo sappiamo, perché in tutti gli altri campionati, compreso quello portoghese, vediamo giocatori a palla che vanno come un flipper. In Italia ogni 2-3-4 fasi, 2-3-4 passaggi il gioco si ferma, si spezzetta, si interrompe, l'arbitro fischia, ci sono le proteste, il pallone va fuori e quindi si gioca uno sport tendenzialmente diverso rispetto a quello di altri paesi. Poi, se vogliamo dire che i giocatori italiani sono anche un po' lazzaroni, che lavorano poco, abbiamo anche qualche prova e qualche testimonianza in proposito. Lavorano in modo molto diverso rispetto a quanto si fa in altri paesi. Questo l'aveva detto anche Mourinho con un forte atto d'accusa, lo ricordate? Qui i giocatori si fanno i fatti loro, continuano ad andare in palestra, diventano grossi come culturisti, però questo nel calcio serve relativamente. Tancredi Palmieri, tu saresti andato a Toronto per tutti quei soldi? Ma non lo so. A nuoto. Anzi, Giovinco, voglio dire, è ben remunerato, ne possiamo parlare, voglio dire, non c'è problema, lo seguo. Devo correggerti su una cosa, senza che ti offendi, però visto che siamo alla radio del Sole 24 Ore, certo, importanti, non è vero che sarà il giocatore italiano più pagato o che prende 8 milioni e mezzo, quella è la cifra lorda. Netta, visto che ci sono le tasse che sono all'incirca sul 25%, beati loro, al netto prenderà circa 5 milioni di euro all'anno con i bonus 5 qualcosa, che sono comunque roba gigantesca, voglio dire. Sì. Non lo so, guarda, io leggo diverse fonti, una di queste era la Gazzetta che parla di 6 milioni netti più 2,5 di bonus e quindi fa 8 o 6 a stagione per 4 anni, comunque restano comunque un sacco di soldi. Mi assumo la responsabilità della Perfetto, rimane comunque una somma per la quale si va. Io stavo pensando che regalo dovrebbe fare Giovinco al suo procuratore Andrea D'Amico, perché secondo me, non lo so, qualcosa di grosso, o di significativo, non lo so, un mignolo, qualche cosa, perché veramente, con tutto il rispetto, secondo me Giovinco peraltro è ottimo e avrebbe avuto probabilmente giocherebbe titolare in questo momento in Italia in tutte le squadre tranne proprio solo la Juve. Secondo io, guarda, la penso come Conte su questo. Conte è sempre stato un suo pallino e per questo l'ha sempre difeso a spada tratta. Sì, però di campo non è che ne desse tantissimo, Lo so, perché comunque sia è arrivato quando sono arrivati anche altri. Capito, che allora intendiamoci, mio caro. Secondo me Giovinco è un giocatore che può giocare titolare in una medio-alta squadra italiana, dove quei soldi non li vedi neanche col binocolo. Lui, molto giovane, ha fatto questo tipo di scelta, che secondo me era, viste le somme, obbligata. Un giorno un deal la fece anche Eto'o, andando in un posto molto meno ospitale, esattamente, come Maciascala. E Maciascala nemmeno, peraltro, perché lui abitava a Mosca e andavano a Maciascala solo a giocare. Però insomma anche quella fu una scelta. Ai tempi io dissi Eto'o deve andare, perché davanti a queste proposte non puoi dire come tu ben sai, voglio dire, a Mosca ci si va anche se non ti pagano a vivere. Figurati se ti danno 20 milioni di euro all'anno. E vedi tu. Intanto, adesso c'è il tormentone, ma dove va Pogba? Ne hanno parlato Lippi, Ancelotti e Marotta. Mi disse, dobbiamo vendere Zidane. Io adesso, porca miseria, Zidane è il miglior calciatore del mondo, però ci danno 150 miliardi. E però mi disse, stia tranquillo che questi 150 miliardi li rispenderemo tutti per comprare altri giocatori importanti. E compravamo Buffon, Nedved e Thuram. E praticamente li facemmo con tre grandi calciatori, uno addirittura gioca ancora, che è Buffon, e rifacemmo la squadra e continuavamo a vincere. E perciò sarà un grande sacrificio sicuramente se dovesse privarsi di Pogba la Juventus, però sarebbero talmente tanti soldi che con questi soldi potrebbero comprare tre o quattro altri grandi calciatori per garantire la continuità. In Italia dicono che Pogba può valere lo stesso. Nella tua testa è il più forte giocatore del campionato italiano in questo momento ed è uno che può arrivare a un top team europeo e mondiale? Io credo che può giocare in qualsiasi squadra del mondo, non nel Real Madrid perché non credo, non interessa. Pogba era una promessa, adesso è diventata una realtà molto importante, ha solo 21 anni, quindi se consideriamo le partite che ha giocato in Serie A e nella sua nazionale, ha già oggi un curriculum veramente di tutto rispetto. È sicuramente paragonabile a Zidane per il valore, per quella qualità che possiede, però oggi è prematuro azzardare quale può essere il suo futuro. Di sicuro la Juventus non è una squadra che vuole vendere i suoi campioni, anche se dal punto di vista economico non siamo toccati, nel senso che qualsiasi offerta può anche essere respinta. La cosa difficile invece è per il giocatore non accettare eventuali emolumenti. Posso dire però con certezza che ad oggi non ci sono queste premesse e sono convinto che il giocatore rimarrà con noi e indosserà questa maglia, e magari con lui potremo insieme crescere e ottenere ancora prestigiosi successi. Lippi, Ancelotti e Marotta li abbiamo sentiti. Da che parte stai, Tancredi Palmieri? Dalla parte di Marcello Lippi, che ricordava l'affaire Zidane, può esserci qualche similitudine al di là della lingua del giocatore, oppure dalla parte del pueblo bianconero che cantava non si vende Pogba. No, ma se arrivano quei soldi il pueblo bianconero canterà altre cose. Devo dire una cosa, mi fa specie correggere anche Marcello Lippi: non è vero che con Zidane furono comprati 3-4 giocatori, con Zidane furono comprati 2. Ci si dimentica che fu venduto anche Inzaghi a 75 miliardi, e con le vendite di Inzaghi e Zidane furono comprati Buffon, Nedved e Thuram, che non erano pochi soldi, 75 miliardi. Quindi anche se viene venduto Pogba a 100 milioni, i grandi, ma proprio grandi giocatori che si potrebbero prendere, se la Juve è brava a trattare sono 3, se la Juve è normale a trattare sono 2, perché le cifre quelle. Poi altra roba, quando si dice sicuramente, Marotta dice sicuramente paragonabile a Zidane, capisco che ognuno voglia vendere la sua mercanzia al meglio possibile. Zidane però, quando è stato venduto a quel prezzo, aveva vinto mondiale con il pallone d'oro annesso ed europeo da protagonista. Bale 2 anni, l'anno scorso è stato venduto, anzi un anno e mezzo fa, è stato venduto a 100 milioni o quelli che sono, sì, avendo segnato da centrocampista offensivo in Premier, non nel campionato olandese, in Premier, se non ricordo male, 28 gol o una cosa del genere. Ora, Pogba è un grandissimo, Pogba sarà un protagonista dei prossimi 10 anni del calcio mondiale, non è però Zidane. Il prezzo iniziale, base, quello, il cartellino che è attaccato alla maglietta di Pogba, è 60 milioni di euro. Dopo, a seconda di quelle che sono le offerte che arriveranno, a seconda di quella che è la follia del Real Madrid, se dovesse essere il Real Madrid a fare la follia o altro, e la bravura anche di Marotta a vendere, tutto è a salire. Sì. Però è ovvio che loro battono sul tasto 90-100 milioni, perché se ne portano 90-100 milioni, ma secondo me affittano il pullman del Milan che è stato internazionale, certo, certo, e lo portano in quella maniera a Madrid. E fanno benissimo, dal mio punto di vista, fanno benissimo, perché stesso discorso per Giovinco, no? A quei soldi non si può dire di no, anche se potrebbe essere un gioco d'azzardo quasi per il futuro, lo tiene ancora una stagione. Se questo continua a crescere come sta crescendo adesso, allora il prezzo potrebbe salire. Questo potrebbe essere anche un conto economico che la Juventus potrebbe rischiare di fare. È chiaro che se arrivano quelli e staccano l'assegno con 3 cifre, allora prendi il pullman del Milan, vai. Ma è chiaro. Marcello Rimini, buongiorno. Buongiorno Genta, grazie per avermi convocato. A lei, vi ascolto sempre. Io le volevo dare il mio punto di vista sia su Giovinco, su Pogba, su quello di cui state parlando. Io ho vissuto parecchi anni in Brasile, conosco bene il calcio brasiliano, infatti devo dire che sento delle volte dei concetti e delle pronunce sul calcio brasiliano che mi fanno un po' rabbrividire. Però il campionato brasiliano si è risollevato proprio così. Il San Paolo è un modello, il Santos anche. Loro crescono giocatori che siano del vivaio, che vengano dall'Argentina. Tevez è un altro esempio, che ha vinto lo scudetto da solo, sì, col Corinthians a San Paolo. Cioè loro cosa fanno? Sia dell'operazione Giovinco sia di quella Pogba. Capisci cosa voglio dire? Cioè loro prendono, ottimizzano e rivendono. E sì, così fanno sì che l'economia del club continui in positivo o quantomeno in un negativo minore. Sì, sono tradizionalmente Argentina e Brasile paesi esportatori di giocatori. Quindi io adesso il Brasile in particolare le dico perché l'ho vissuto, sì, insomma, poi possiamo metterci anche l'Argentina, sono paesi che i giocatori li crescono, li esportano, io e così credo sopravvivono. Che è una politica in questo non momento nuova. Mi scusi gente, sì, ma io credo che il campionato italiano debba fare questo. È una fase in cui purtroppo bisogna fare così, perché un giocatore come Pogba a poco più di 20 anni, 100 milioni di euro, cioè, ma su questo siamo, guardi Marcello, su questo siamo tutti d'accordo, la Juventus compresa, e grosso modo è quello perché se si spacca, questo è la mia, no, vabbè, capisci? Si spacca, poveretto, faccio gli scongiuri del caso, no, ma questo è un discorso che vale per tutti, può valere per tutti gli sportivi, no? Insomma, l'attività è quella che è, la carriera è quella che è, non infinita, bisogna monetizzare tutto quanto, però credo che su quel valore siamo d'accordo tutti, compresa la Juventus. Mi sembra anche Tancredi che questa sia la politica seguita dal calcio italiano negli ultimi anni. Napoli, la stessa Roma, eccetera, hanno praticato sempre questa politica. Secondo me può essere due vie: quella di mantenere il club e quella anche di comprare giocatori, perché sì, vede, il signor Tancredi prima diceva: ah sì, ha venduto, ha preso solo 3 giocatori. Cavolo, però ha preso Buffon, Thuram e Nedved all'epoca. Sì, sì, si è garantita, ma come dice Lippi, si è garantita al futuro. Sul fatto che adesso Tancredi ci siano, so, 4 club, 5 club che possono comprare grosso modo chi vogliono, 3 club, sì, sì, quelli arabi, russi, eccetera, sappiamo bene quali sono i nomi, è inutile stare a farli, 2 spagnoli, quello francese, quello inglese e così via, ci sono questi club che possono comprare più o meno tutto, tutti gli altri, non solo le società italiane, ruotano intorno alla follia, se vogliamo, di questi club. Ma è giusto, guarda, a parte che non ho detto solo 3 giocatori, ma ho semplicemente detto che i campioni comunque sia hanno un prezzo, quindi non pensiamo che si possa fare tutta una squadra. Però l'importante, secondo me, non è uno scandalo vendere all'estero, perché se non abbiamo o l'azionariato popolare di Bayern, Real e Barcellona con conseguente i conseguenti introiti, o il marketing di Manchester, Chelsea e comunque sia con il tycoon dietro, inutile stare a piangerci addosso. Se non c'è quello che ha tantissimi soldi, non c'è, punto e basta. Basta fare le cessioni Kungrano Salis. Allora, se la Roma vende a 32 milioni di euro Marquinhos al Paris Saint Germain, ma va benissimo, voglio dire, perché comunque sia la Roma poi ti trova un Castan a poco e lo rivaluta. Fin quando sono quelli i prezzi, va benissimo. E quando tu vendi per vendere, per avere pochi maledetti e subito, ammazzi il processo di evoluzione e non prendi nemmeno troppi soldi. Guarda, per dirti un esempio, anche se mi sembrerebbe di sparare sulla croce rossa in questo momento, perché per esempio l'Inter sta facendo bene, almeno in questa fase di mercato, ma per dirti, è come quando l'Inter diede Coutinho al Liverpool a una cifra irrisoria, fu 10 milioni, dopo che per due anni aveva seguito un processo di evoluzione costante di Coutinho, l'Espagnol cresceva e alto, e poi l'ha dato via per pochi, e Coutinho comunque sia è un buon titolare in Premier. Per cui l'importante è farlo con Gonzalo Salis, non c'è nessuno scandalo. Se non abbiamo i soldi come gli altri, se usiamo l'intelligenza va bene, anche perché Carlo, sempre 11 ne scendono in campo. Ma sì, no, gira e rigira, le grandi squadre devono dare via quelli che sono insoddisfatti. L'Inter ha fatto il triplete andando a prendere Sneijder, che era insoddisfatto al Real Madrid. Sì, sì. Robben, il Real Madrid lo diede via perché era insoddisfatto, e il Bayern Monaco ci ha campato 6 anni con Robben. Quindi certo. No, ma poi non dimentichiamo che quell'Inter nacque dall'insoddisfatto Ibrahimovic, che andò a Barcellona, arrivò Eto'o, arrivò Sneijder, arrivò il triplete. Grazie Tancredi, un abbraccio, alla prossima. A voi un abbraccio. Ciao, dobbiamo sentire la borsa, poi torniamo. Marco, Iari e Emilio. Vedo una botta di vita a questa trasmissione. E noi la ringraziamo. Tutti convocati. E io torno dai miei convocati. 800240024, numero verde. Iari, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per la convocazione, complimenti a trasmissione. Non mi dica che Giovinco fa male. No, io parlo del Milan. Io ho 39 anni, sono tifoso del Milan dai tempi di Mark Hackley, per cui penso che con qualche anno. E Ray Wilkins. Esatto. Niente, che dire, c'è un Milan disastroso. Io sto guardando tutte le partite da casa, seduto comodo sul divano, però veramente mi fa passare la voglia di vedere. Quando vedo in campo queste formazioni, questa formazione, mi viene in mente il Sacchi, il Capello, gli Ancelotti, una formazione così era schierata forse in Coppa Italia con l'Albino Leffe, con tutto rispetto per l'Albino Leffe. Sì, ci sono allora giocatori a Milan che non farebbero neanche l'amichevole del giovedì a Busto Arsizio. Sì, esatto. Allora mi chiedo, terzo posto, Champions League, tutte quelle cose, ma cioè, non prendiamoci in giro. Se giochiamo con la fantasia un attimo, andiamo in Champions League, preliminari, cosa facciamo? Andiamo dopo i sorteggi, dove a Monaco, dove li fanno col rosario in mano, sperando di trovare qualche squadra di Helsinki oppure così via. Cioè, ci stanno letteralmente prendendo in giro, perché una squadra così in Champions League non passa nemmeno i preliminari. Ma io dico, una squadra così in Champions League non ci va, quindi sarà, non servirà neanche il rosario, non serviranno le preghiere, serviranno i soldi. Non so se a questo punto ci sono. Poi non è che il Milan di Hartley Wiggins fosse molto meglio, diciamoci la verità, Iari, anche ai tempi non è che si divertiva così da morire. Poi sono arrivate altre storie, è arrivato Berlusconi e il vento è cambiato. Ci sono, però il Milan è in eccellente compagnia, non dimentichiamo che ha gli stessi punti dell'Inter, e non Mancini ha detto al terzo posto, anzi facciamo sentire, al terzo posto ci crediamo, e l'anno prossimo si gioca per lo scudetto, l'ha detto Mancini. Non lo troviamo, ma lo recupereremo. Emilio Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per avermi convocato. Io ho un commento un po' diverso. Vorrei sapere qual è il motivo della gratificazione che hanno fatto a Marotta con quel premio lì a Firenze, se non sbaglio. Secondo voi? Perché non... Io una dozzina d'anni ci ho lavorato assieme all'inizio, ma lasciamo perdere il passato remoto. Sì. Ma quando è arrivato Marotta alla Juventus con lo staff della Samp, dove era lui l'immagine, giusto? È stato l'anno più disastroso della Juve, tra l'altro ritardando di un anno l'arrivo di Conte. L'anno di Del Neri. Esatto, tutto il suo staff della Samp si è portato. Giusto? Gli unici che hanno pagato sono stati tutti gli altri, come fa di solito lui, tranne lui che è rimasto. E poi per fortuna è arrivato Conte, che già l'ha ritardato un anno. Allora, io non so quali rapporti abbia lei con Marotta, abbia avuto lei con Marotta, se ci sia del rancore. Allora, Marotta il primo anno alla Juventus non lavorò nel migliore dei modi, si è detto in tutte le maniere, fu un anno fallimentare. Ma io non credo che da lì in poi, al di là di Conte che faceva l'allenatore, Marotta fa un altro mestiere, non credo che i tifosi juventini abbiano una gran voglia di discutere l'operato di Marotta, che secondo me ha lavorato in maniera eccellente in questa era degli scudetti di Conte e magari ora di Allegri. Altro. Quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento. È un atteggiamento un po' testardo a volte, però sono fatto così. Quello che è successo quest'estate mi ha aiutato a maturare, a capire come comportarci dentro e dal campo. Sentimento, non c'è mai pentimento. È stato un periodo tosto, un periodo di riflessione in cui ho osservato tanto sia la squadra che quello che mi succedeva attorno. Ho scoperto chi veramente mi voleva del bene, chi mi è stato vicino e niente, è capitato, spero che non si ripeta più e sono contentissimo perché posso riprendere a fare quello che amo, cioè giocare in campionato e giocare su due competizioni. E quello che avete sentito è Daniel Hackett, notizia dell'altro giorno, ma ieri è tornato a parlare dopo la riduzione della squalifica, dopo la squalifica originale è stata dimezzata con atto di grazia di intelligenza, secondo me, di Petrucci e della Fenerbahçe. Dunque Daniel Hackett tornerà a giocare per l'Armani Milano in campionato. Luca Chiabotti, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao Luca. Ciao a tutti, buongiorno. Sei d'accordo con me quando parlo di atto dovuto, tutto sommato, ad Hackett? Sì, sì, perché era stata abnorme la punizione e quindi poi dopo si è corso, diciamo, tra virgolette, ripari rendendola più umana. Non è questo il modo in cui dovrebbero andare le cose, nel senso che se c'è il regolamento che dice una cosa ed è tra virgolette, almeno secondo la mia idea, sbagliata, non è che poi dopo si punisce e poi dopo si grazia, bisogna cambiare le norme alla fonte. Così non è stato, si è fatto questo cambio in corsa, arriva in un momento in cui Milano comunque in testa, ha dominato l'andata e quindi non ci sono polemiche, perché poi vorrei vedere in altre situazioni se la federazione avesse regalato Daniel Hackett, un giocatore, qualsiasi altra federazione, un giocatore importante, alla squadra più importante, che cosa sarebbe successo. Qui non è successo, proprio perché tutti, credo, ci siamo resi conto che la colpa di Daniel non meritasse 6 mesi di squalifica come gli erano stati comminati. Sì, sono giorni di squalifiche, di redenzioni. Devi ricordare la vicenda di Carolina Kostner, molto diversa rispetto a quella di Daniel Hackett, che abbandonò quel dì il ritiro della nazionale in malo modo. Ora graziato, ora Milano già la più forte, forse tu dici questo, Luca, le altre non sono lamentate più di tanto, forse perché si sono arrese al fatto che Milano non è battibile in questa stagione. Sì, probabile, o anche perché magari sanno che tanto Daniel sarebbe comunque rientrato prima dei playoff, che sono il momento nel quale il basket poi tira le somme, quindi in un modo o nell'altro nella lotta per lo scudetto se lo sarebbero trovate. Certo che è diverso averlo sempre o averlo a mezzo servizio come è stato nel giorno d'andata, anche se Milano è stata brava, penso più brava Milano che

entra e esce della nazionale a seconda di come sta, come non sta, e come sta o come non sta non viene deciso dai medici della nazionale ma da lui. E io credo che se Daniel, come credo abbia promesso e come ovviamente nei discorsi tra che già ci sono stati tra compagni, garantirà agli altri compagni di esserci sempre, non problemi non ce ne saranno, anzi. Se invece, chiaramente questo non lo vedremo subito, il problema sarà se cominceranno le solite cose, adesso c'è un europeo allora vengo, la prossima volta non ci sono allora non vengo, eccetera eccetera eccetera, cosa che accomuna peraltro non solo Daniel ma anche gli americani, grosso modo, i giocatori, esatto, dell'NBA, italiani dell'NBA. D'altra parte, Luca, insomma, so che è difficile, però ne parlavamo con te una volta, ne parlavo con Andrea Zorzi che faceva il parallelo con la nazionale di Velasco non andava a strombazzare i discorsi con i giocatori, però li chiamava e diceva: ascolta, a sto giro ce la fai, vieni, non vieni, se non vieni io non ti convoco, non vado a dire che non, semplicemente d'accordo, mi prendo responsabilità io, non ti convoco e tu te ne stai a casa tua, ti riposi, ti fai un'estate di terapie, quello che vuoi. Forse servirebbe anche questo granusalis e non andare muro contro muro tutte le volte. Ma io credo che ci sia in realtà, almeno con gli americani c'è questo tipo di patto. Questo tipo di patto, tant'è vero che a parte agli inizi quando eravamo tutti poco abituati a questo genere di cose, a parte un paio di scontri con Bargnani all'inizio, poi tutte le altre volte la situazione è stata gestita fino alle ultime del tipo non vengo, amen, ciao, com'è? Ecco. Quindi direi che questo modo di fare c'è già, non si può secondo me accusare la federazione o il CT di aver fatto muro contro muro. Credo che però la differenza rispetto a le parole che diciamo da Pallavolo di Velasco, sì, è che a parte il gruppo vincente, a parte che quello poteva essere un gruppo molto unito e che aveva vinto tanto, voleva vincere tanto, mentre qua si è rischiato, quindi chi non andava non ci andava, ma perché veramente in quel momento non ce la faceva ad andare. Qui si è rischiato per tanti anni di avere una nazionale spaccata in due, tra chi aveva determinati privilegi, sì, e chi non li aveva. È chiaro che la forza, non siamo per fortuna in una cosa meritocratica, e quindi chi è più forte magari ha più diritti di chi è più debole. Però dopo, quando si tratta di andare a vincere le partite, si è visto che questo non ha funzionato e che comunque certe spaccature, già è difficile andare in nazionale, già è difficile essere l'Italia, un europeo, un mondiale, già è difficile tutto, se poi inseriamo nel meccanismo azzurro un potenziale momento di rottura tra alcuni giocatori, dei gruppi, certi che si sentono che vanno sempre e non sono tutelati come quelli che invece vanno un po' sì, un po' no, secondo me è una cosa brutta, sì, nel senso che è contro la prestazione poi generale del gruppo. Sì. Non parliamo né di cattiveria, né di niente, né di rapporti difficili, è proprio, sì, un gruppo che deve funzionare e quindi bisogna togliere tutte quelle cose che rischiano di farlo funzionare meno bene. E questa era una sicuramente. Grazie Luca, a prestissimo. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. Grazie Luca Chiabotti. Allora, prima di Guido da Brescia e Sauro da Macerata, vi faccio sentire al volo il Mancini di prima che vi ho promesso, quello che dice Inter al terzo posto e l'anno prossimo vogliamo lo scudetto, e poi Garcia, vigilia di Coppa Italia per la Roma. Purtroppo nessuno è mago e quindi non può cambiare le cose così in un attimo, si possono passare dalle prestazioni buone a prestazioni meno buone come quella di Empoli. Credo che da ogni situazione bisogna prendere, estrarre le cose positive e quelle negative e lavorarci. È chiaro che noi siamo una squadra che manca in qualcosa, ma per far questo abbiamo bisogno di un po' più di tempo e non abbatterci quando le cose non vanno. Il campionato è lungo, io credo che avremo la possibilità di agganciare il terzo posto o arrivare in Champions League da un'altra strada, quindi bisogna sempre crederci. Noi un altro anno dovremmo essere quell'Inter lì, non fra due anni è troppo tardi. Un altro anno l'Inter deve lottare per lo scudetto, deve lottare per i massimi traguardi e lavoreremo per questo, però prima di fare questo dovremmo fare il possibile per centrare la Champions League quest'anno, quindi però un altro anno dobbiamo lottare per lo scudetto. molto pericolosa sui calci piazzati, è una squadra che, che sta facendo veramente un ottimo campionato. Noi è anche vero, io il primo, che su questa Coppa Italia mettiamo tutto per avere la decima, come si dice in Spagna. Dunque, Mancini vuole la Champions League, Garcia vuole la decima e magari qualcos'altro. Non dimentichiamo però che ci sono per l'Inter due strade che portano a Roma, cioè alla Champions League, il terzo posto in campionato, ma c'è anche la vittoria di Europa League. E è dall'inizio che diciamo, è chiaro che è un percorso molto più aleatorio ma anche molto più glorioso, potrebbe essere dall'inizio che diciamo che club come l'Inter, il Napoli ma anche la Fiorentina debbano puntare fortissimo quest'anno sull'Europa League. Fino adesso lo stanno facendo ed è merito loro. Guido Brescia, buongiorno. Ciao Genta, grazie per la convocazione. Mi rendo conto che sono un po' fuori argomento adesso perché quando si parlava di Pogba. Sì, non siete mai fuori argomento, vale sempre tutto. Dimmi. Molto bene. L'analogia tra Pogba, il caso Pogba, chiamiamolo così, e il caso Zidane, non la trovo pertinente, non tanto per il valore dei due giocatori che sono entrambi dei grandi campioni. Quanto per l'età. Ma quanto perché con i soldi di Pogba si era riusciti a comprare tre grandi campioni che poi hanno fatto la Juve per tanti anni. Con i soldi di Pogba non è sufficiente comprare i cartellini, bisogna poi pagare gli ingaggi. Sì. E gli ingaggi dei grandi campioni e gli stipendi dei grandi campioni sono un po' fuori target per la Juve, che si è messa un tetto salariale. Sì, ma io credo, l'ha detto anche Marotta, che potrebbe diventare complicato anche pagare l'ingaggio che Pogba potrebbe strappare al Real Madrid, al Bayern Monaco, insomma i nomi dei club che possono prenderlo li conoscete anche voi, quindi per la Juventus potrebbe essere anche questo il problema, no? Devi trattenere Pogba e sta diventando quello che sta diventando, cioè un giocatore da 100 milioni pretenderà con Raiola che bussa alla porta di essere pagato per quei soldi, insomma, per quanto vale. Sauro da Macerata, ci sentiamo domani. Purtroppo è scaduto il tempo a nostra disposizione, ma domani torniamo con due ore dalle 14 in poi. Giorgio De Luca, il nostro autore, Fabio Cantadone in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ciao. Arrivo, un attimo.